voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Fantozzi e Filini ne andarono a ritirare nel tragico labirintone del parco vendite. E per una agghiacciante coincidenza, tutte e due lo stesso giorno, la stessa ora e lo stesso modello. Gentle grace, sweet vanished pleasure, oh, you kill me silently, pretending innocence, but silently kill. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh soul, cold, cold, cold, silently, in a dear embrace. Come to my heart, take lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction, oh, sick pins in a yellow sun, protesting innocence, but suddenly killed. Un autentico essere, ragionava Needleman, può soltanto estrinsecarsi durante il weekend, ma anche allora bisogna farsi prestare una macchina. L'uomo, secondo Needleman, non è una cosa avulsa dalla natura, bensì parte integrante di essa, e non può osservare la propria esistenza se prima non fa finta di niente e poi spicca una corsa all'improvviso, da un capo all'altro della stanza, velocissimo, nella speranza di intravedersi. Il fenomeno della vita si riassumeva per lui nel termine Angstzeit, che vuol dire pressappoco angoscia tempo o tempo dell'angoscia, e cioè l'uomo è una creatura condannata a esistere nel tempo, se non che non è qui che l'azione si svolge. Dopo lunghe riflessioni, il rigore intellettuale di Needleman lo portò alla convinzione che lui non esisteva, non esistevano i suoi amici e che l'unica realtà era un suo pagherò per 6 milioni di marchi. Pertanto fu affascinato dalla filosofia della potenza insita nel nazismo, ovvero, come ebbe a dire lui stesso, «La camicia bruna si intona con il colore dei miei occhi». Quando risultò evidente che il nazismo era proprio tutto ciò cui Needleman era strenuamente contrario, lui fuggì da Berlino. Travestito da cespuglio e muovendosi solo in diagonale, a tre rapidi passi alla volta, attraversò il confine senza farsi notare. Dovunque andasse in Europa, trovava studenti e studiosi disposti ad aiutarlo, reverenti di fronte alla sua fama. Scappando qua e là, trovò il tempo di pubblicare «Tempo, essenza e realtà, sistematica rivalutazione del nulla», nonché un delizioso trattarello su «Come e dove mangiar bene nella clandestinità». Chaim Weizmann e Martin Buber organizzarono una colletta e raccolsero petizioni firmate che mettessero Needleman nella condizione di poter emigrare negli Stati Uniti. Ma a quel tempo l'albergo di suo gradimento era al completo. Siccome aveva le SS alle calcagna e il suo nascondiglio a Praga era stato scoperto, Needleman decise di partire lo stesso. Se non che ci fu un intoppo all'aeroporto, dovuto all'eccesso di peso del suo bagaglio. Albert Einstein, che era sul suo stesso volo, calcolò che se avesse eliminato le stringhe dalle scarpe, avrebbe potuto portarsi tutto il resto. Da allora i due si tennero in corrispondenza. Einstein una volta gli scrisse: «Il suo lavoro e il mio sono assai simili, anche se non so ancora esattamente in che cosa consiste il suo lavoro». Questo era ancora Ricordo di Needleman, da Effetti Collaterali, di Woody Allen. Roses blossom through the cinder. The teachers will be pupils again. If just the weather takes the butter off the words. And all the secrets I've always blessed, as what I try to pledge myself to not forget. But now the powder has the final love. Have you heard? Never heard. È la seconda parte di Eclettica, che è iniziata da qualche minuto qua, sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, in compagnia di Giulio Cappardoni. Seconda parte di Eclettica che è cominciata con quello che è il meglio della musica italiana degli ultimi mesi, prima Juan Mordecai e poi E Toys Orchestra. Questa è la sequenza dei due brani appena ascoltati, su cui non do nessun'altra informazione, non dovreste averne bisogno, soprattutto se siete ascoltatori fedeli di questa trasmissione. Si prosegue invece con un brano che potremmo considerare psichedelico, perlomeno c'è il termine Psychic all'interno del nome della formazione, Psychic TV, una formazione che è nata nel 1981 e che fu fondata, fra gli altri, da Genesis P. Orridge, o Genesis Porridge, come preferite, che proveniva da una band che può in pratica ricordare bei tempi a chi alla fine degli anni 70 seguiva tutto il panorama New Wave, ovvero sia i Throbbing Gristle. Ecco, questi Psychic TV dall'81 ad oggi continuano a fare musica con scioglimenti e ricongiungimenti, un nuovo album dal titolo Hell is Invisible, Heaven is Here, dal quale ci ascoltiamo la traccia Lies and Then. come nobile borbonica, la compagna che s'era scelto per il viaggio, una nota troia di Bari, chiamata ironicamente la contessa per i suoi modi particolarmente aristocratici. Una volta in America, Needleman fu quasi sempre al centro di accese polemiche. Pubblicò la sua famosa opera La non esistenza, come comportarsi quando se ne è improvvisamente colpiti. Un classico divenne anche il suo manuale di filosofia del linguaggio, La semantica del funzionamento non essenziale, da cui fu tratto il famoso film Volarono di notte. Tipico, fu pregato di dimettersi da Harvard a causa della sua adesione al Partito Comunista. Secondo lui, solo in una società senza sperequazioni economiche poteva esserci la vera libertà, e citava a modello un allevamento di formiche. Era capace di starle a guardare per ore, e soleva ripetere, scuotendo la testa, «Sono davvero armoniose. Se le loro femmine fossero più carine, sarebbe fatta». Interessante. Quando Needleman fu convocato dalla Commissione per le attività anti-americane, denunciò tutti i suoi amici. A sua giustificazione addusse: «Le azioni politiche non hanno conseguenze morali, in quanto sussistono al di fuori del regno dell'essere reale». Per una volta tanto la comunità accademica accusò il colpo e trascorsero alcune settimane prima che i docenti di Princeton decidessero di incatramare e impiumare Needleman. Fra parentesi, Needleman usò questo stesso ragionamento per giustificare la sua teoria del libero amore. Ma nessuna delle due studentesse se la bevve e la sedicenne fece una piazzata bestiale. Needleman era per la messa al bando delle prove nucleari e si recò a Los Alamos, dove, assieme a molti studenti, si rifiutò di allontanarsi dal luogo dell'esplosione atomica. Quando fu chiaro che l'ordigno sarebbe stato fatto detonare lo stesso, nonostante il rifiuto dei dimostranti di sgombrare il poligono, si udì Needleman borbottare «Ah-ah!» e quindi se la diede a gambe. Quello che i giornali non riferirono è che era a digiuno dalla sera avanti. Facile ricordare l'uomo pubblico Needleman, il brillante polemista, l'impegnato autore di Modi di moda. Ma è del Needleman privato che io serbo memoria più affettuosa, del Shandor Needleman che non stava mai a capo scoperto. Fu cremato con il cappello in testa, di prima, credo. O il Needleman che andava a pazzo per i film di Walt Disney e che, nonostante le lucide spiegazioni di Max Planck sui disegni animati, voleva a tutti i costi telefonare a Minnie. Questo era ancora Ricordo di Needleman, da Effetti collaterali di Woody Allen. Heard the sound from miles away, thumped in my ear like a drum. I was picked out of everyone, so I listened on. Took me out of a passion I'd imagined and sent me out on a search. If it hadn't rained so hard that night, I could have made it to your house by one. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. That night felt like a vicious joke, would've killed me all the way up to you. Day shone a little less light, so you rebuilt the moons. Taught me how to follow my shadow, could have sunk me like a stone. But the stars shine brighter in the sky than the dust from the dirt below. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. E per questa 44esima settimana della stagione numero 13 di Eclettica siamo arrivati quasi alla chiusura, ci siamo avvicinati alla chiusura con i Lightning Dust, un duo canadese per la precisione dal British Columbia, formato da Amber Webber e da Joshua Wells. Sono in due, ma a volte ci sono altri elementi, poi non sono sempre gli stessi. Sometimes With, riporta il loro sito. Lightning Dust che ci siamo ascoltati con il pezzo dal titolo Listen On. Si chiude invece con quello che è il nuovo degli islandesi Moom, ovvero sia Dancing Behind My Eyelids. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 44, volume numero 1, indice, The Most Serene Republic, Slar of Finland, Sunset Rapdown, Marchos, Speck Mountain, Juan Mordecai, A Toys Orchestra, Psychic TV, The Dead 60s, Lightning Dust, Moom. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.